Cari amiche e cari amici della Tela Sonora e di Radio Alma 101.9 FM, benvenuti a un nuovo appuntamento con la nostra Tela Sonora. Tela Sonora, come sapete, essendo una tela, si occupa dei suoi vari fili, fili che non vogliono intrappolare nulla, ma anzi vogliono espandere. Una tela che vuole con i suoi fili collegare tanti sentimenti, collegare tante persone e che vuole, attraverso appunto la sua espressione radiofonica, arrivare a tutti voi per parlare di argomenti ai quali teniamo, io in particolar modo. Benvenuti, buona serata da parte di Massimo De Martino, e parliamo di poesia. La poesia ha un momento molto importante, quello nella quale viene declamata, nella quale i versi vengono raccontati, vengono appunto esibiti dall'autore degli stessi. Ma una valenza comunicativa ancor più forte quando questi versi vengono inseriti in una canzone, e quando a comunicarli, a cantarli, è una grande voce, ed è la più grande voce femminile che la storia della musica abbia mai avuto, per stile, per capacità di comunicazione e anche per particolarità della tonalità e del tono della voce stessa. Stiamo parlando di una grandissima cantante, stiamo parlando di lei, di Day, di Billie Holiday e della sua storia. La sua storia che attraversa gli anni più importanti, la nascita del jazz, ed è la voce, e sono i dischi, i compact disc e le playlist dentro appunto gli iPod o i lettori MP3. Tutti coloro che vogliono cantare, che amano quella musica, non possono assolutamente mancare delle sue canzoni. Vi racconterò la sua storia, vi racconterò i testi delle sue canzoni e sentiremo le sue interpretazioni. Allora cominciamo la tela sonora di questa sera, dedicata proprio alla grande Eleanor Holiday, meglio conosciuta come Billie Holiday o ancora di più come Lady Day. E attenzione, perché anche U2 hanno a lei dedicato una canzone chiamandola L'Angelo di Harlem. Cominciamo proprio con U2 che cantano Lady Day con questa Angel of Harlem. A tra poco. Christmas tree, the night this city belongs to me. Angel. due di Bonovox, e anche loro hanno le dedicato una canzone, appunto era questa Angel of Harlem. Stiamo parlando di Billie Holiday, di lei parliamo, vi racconto la sua storia, ascolteremo le sue canzoni, attraverso la sua storia daremo sicuramente più significazione a tanti testi che ha cantato e a tante canzoni che ci ha trasmesso, e alla sua splendida voce. Eleonora Holiday, così è il suo nome, nasceva il 7 di aprile 1915 nel quartiere di Baltimora, che è una città del Maryland. I suoi genitori erano veramente molto giovani, pensate, 13 anni la mamma Sadie e 15 il papà Clarence Holiday. In realtà poi Eleonora non fu allevata dai genitori. Suo padre, che era spesso assente ed in seguito partì abbandonando del tutto la moglie e la figlia, mentre la moglie, appunto la mamma di Billy, lavorava come cameriera. Si era trasferita al nord, dove in città come Philadelphia e New York era più facile per una donna nera trovare lavoro. E dunque Billy passò i primi anni della sua vita con la bisnonna e la cugina Ida. Secondo il racconto di Billy, Ida non faceva altro che picchiarla. L'unica persona che la veramente fu la bisnonna, la quale aveva più di 90 anni. Era stata schiava in una piantagione di cotone in Virginia, dove il suo padrone irlandese, pensate, l'aveva resa madre di ben 16 figli. Si parlava di una quantità di cose della vita e lei mi spiegava come ci si sentiva da schiavi e che effetto faceva appartenere anima e corpo ad un uomo bianco che era padre dei tuoi figli. Non sapeva né leggere né scrivere, ma sapeva la Bibbia tutta a memoria, dalla prima riga fino all'ultima. Queste parole di Billie Holiday le ritroveremo in questo nostro racconto, le potete trovare tutti in un bellissimo libro, La signora canta i blues, una biografia della Longanesi, uscita appunto nel 1959, ma che ha avuto diverse riedizioni. Parliamo ora dell'infanzia di Billie, che è durata poco, perché dovette davvero crescere nella solitudine e soprattutto molto in fretta. Racconta: a 6 anni ero già una donna, ero alta per la mia età, col seno grande e le ossa robuste. Iniziò a lavorare molto presto, lavando le scale prima e conquistando poi un buon posto come sguattera nel bordello del quartiere. Proprio qui che Billy per la prima volta venne a contatto con ciò che diventerà il centro della sua vita, il jazz, o come lo chiamava a quel tempo, come lo si chiamava a quel tempo, musica da casino. Non sono la sola, dice appunto, ad aver sentito per la prima volta del buon jazz in un bordello. Si sedeva in una delle stanze e ascoltava i dischi di Louis Armstrong e di Betsy Smith. Il casino era l'unico posto, si può dire, dove i bianchi e neri potevano incontrarsi tranquillamente, come una cosa naturale. Certo è che nelle chiese facevano poca amicizia. Ancora parole di Billie Holiday. Billie era un vero maschiaccio, anzi, diciamo così, Eleonora era un vero maschiaccio, tanto che suo padre a un certo punto l'aveva soprannominata Bill. Ma lei, fin da piccola, era molto orgogliosa della sua femminilità e si ribattezzò Billie, rubando il nome alla sua attrice preferita, Billie Dove. A soli 10 anni, Billie venne purtroppo violentata da un uomo del quartiere, anche lui di colore. Racconta: non me lo scorderò mai. Quella notte, anche se lo fai di mestiere, non ti va di essere presa con la forza. Una può ripassarsi magari 2000 uomini al giorno, ma neppure allora le garba l'idea di venire violentata. Queste parole sono tratte appunto, come vi dicevo, da un'incredibile biografia, Lady Sings the Blues, la signora canta i blues. Da essa traspare l'idea di una prostituzione davvero molto precoce. Si intuisce inoltre che ogni cosa nella sua vita molto breve avvenne in maniera prematura, bella o brutta che fosse. Billie fu allora ingiustamente accusata della violenza subita, venne rinchiusa in un riformatorio cattolico fino a quando sua madre riuscì a tirarla fuori per essere da lei raggiunta a New York. In my solitude, you haunt me with revelries of days gone by. In my solitude, sail with gloom everywhere. I sit and I stare. I know that I'll soon go mad in my solitude. I'm praying, dear Lord above, send back my love. No one could be so sad with gloom everywhere. I sit and I stare. I know that I'll soon go mad in my sight. Così che Billie Holiday a 13 anni, messa su un treno, non resistette alla tentazione di scendere alla Penn Station di New York, anche se sua madre l'aspettava a Long Branch, per poter vedere il luogo dei suoi sogni, l'amata Harlem. Dopo aver fatto la cameriera per qualche mese abitando a Brooklyn con la madre, Billie si trasferì proprio nel cuore di Harlem, affittò una stanza nel bordello di una certa Florence, dove iniziò a lavorare come call girl. Ebbi ben presto due clienti fissi, due giovani bianchi su cui potevo contare tutte le settimane. La madama levava sempre $5 dai miei 20, ma era una pacchia lo stesso, perché guadagnavo sempre più lì in una settimana che a fare la cameriera in un mese di seguito. Billie non aveva fino allora conosciuto una vita migliore e col tempo iniziò a comprarsi tutte le piccole cose che aveva sempre sognato: il suo primo vestito di seta, le scarpe alte di vernice che lei adorava. Il suo essere donna le dava una certa forza, ma all'età di 14 anni venne nuovamente violentata ed arrestata. Iniziò allora a scontare la sua pena lavorando come infermiera in un ospedale di Brooklyn e poi venne spedita nella prigione di Welfare Island, dove rimase per 4 mesi. Qui Billie riuscì comunque a diventare una sorta di pezzo grosso facendo la cuoca, ricevette aiuto dalle altre prigioniere e si fece qualche amica. Nonostante questo, la scorza di lei chiaramente si induriva e il suo sentimento di paura verso gli uomini sembrava crescere inevitabilmente. Fece ritorno a New York nel 1929 e racconta: quando alla fine io e la mamma potemmo riunirci dopo aver trovato una casetta tutta per conto nostro ad Harlem, era l'anno della crisi. Beh, almeno così ci dissero, perché per noi la crisi non era certo una grande novità. Di nuovo Billie andò ad abitare ad Harlem sulla 139esima strada, a pochi isolati dal vero fermento, dove la 131esima taglia la 7ª Avenue. Questo incrocio, racconta ancora Billie, era un atlante divenuto realtà, il punto geometrico dell'intero universo, il rendezvous di tutte le persone intelligenti. Nell'incrocio di Harlem restavate sempre a bocca aperta, mentre tutto il mondo pazzo vi sfilava sotto gli occhi e rivelava al vostro sguardo tutti i suoi gelosi segreti. Quei pochi blocks brulicavano di locali che aprivano alle ore piccole, dopo i teatri, di comuni nightclub, di ristoranti e di caffè. Si era in pieno proibizionismo e i locali venivano chiusi con molta velocità per riaprire con un nome diverso il giorno dopo, giù di lì. Per questo girava il detto che i piccoli clubs cambiavano i loro nomi con la stessa velocità con le quali cambiavano le proprie tovaglie. Fu in uno di quei posti, il Roseland Ballroom, che Bill rincontrò suo padre, Clarence Holiday, che nel frattempo si era guadagnato un posto come chitarrista nell'orchestra di Fletcher Anderson, il pioniere delle grandi orchestre di colore. Billie e sua madre erano povere fino a non aver da mangiare. Un giorno, senza soldi per pagare l'affitto, Billie entrò in tutti i piccoli clubs e ristoranti della 7ª Avenue cercando lavoro. Non trovò nulla, fino a che da Potts and Jerry's qualcuno le chiese se sapeva cantare. Lei fece cenno al pianista di suonare una canzone, anche se il suo vero sogno era da sempre quello di ballare. Quando la canzone finì, tutti stavano lacrimando nelle loro birre e Billy si portò a casa $57, cifra che non avrebbe neppure osato sognare. È il 1930, Billy Holiday ha 15 anni ed è solo l'inizio di una carriera vorticosa e sorprendentemente fertile. Il suo grande successo fu però sempre accostato a vicende drammatiche. Spesso, nel sentirla cantare, si percepiscono insieme un autentico entusiasmo per la vita e una profonda lacerazione. E forse il contrasto di questi sentimenti ha fatto di lei una grande artista. All of me, why not take all of me? You see, I'm no good without you. Take my lips, I want to lose them. Take my arms, I'll never use them. Your goodbye left me with eyes that cry. How can I go on, dear, without you? You took the part that once was my heart, so why not take all of me? Billie Holiday con All of Me in questa puntata della Terra Sonora, cari amici di Radio Alma 101.9, vi sto raccontando la storia di Lady Day di Billie Holiday. In quei giorni, nei clubs di Harlem, il sistema era quello di un pianista che accompagnava più ragazze che cantavano a turno. Dopo l'esibizione si fermavano ad ogni tavolo raccogliendo i soldi che i clienti infilavano fra le loro gambe per poi dividerli con il pianista. Billy si rifiutava di farlo e le altre ragazze iniziarono a chiamarla Lady. Lei se ne fregava, pretendeva che i clienti le porgessero i dollari in mano in maniera educata, riuscendo perfino ad essere accontentata. Billy aveva 18 anni quando John Hammond, uno scopritore di talenti jazz, la sentì cantare. Pochi giorni dopo scrisse di lei sul Melody Maker: c'è un nuovo talento che si chiama Billie Holiday. Anche se solo 18enne, canta bene come nessuno si è mai sentito cantare prima. Pesa 200 pounds, è alta ed incredibilmente bella. John Hammond, allora 22enne, fu molto importante nella carriera di Billy. Oltre a essere un talent scout, aveva la dote di mettere la gente giusta insieme, organizzando jam sessions ed incisione di dischi. Fu Hammond che scoprì e lanciò quasi ogni musicista e complesso di una certa importanza al tempo dello swing. Poco dopo aver conosciuto Billy, una sera le presentò un ragazzo bianco che si chiamava Benny Goodman. Suonava il clarinetto e qualche anno più tardi diventò il re dello swing, facendo ballare migliaia di persone con la sua orchestra. Hammond e Goodman organizzarono la prima incisione di Billie Holiday, Your Mother's Son-in-Law. nonostante la paura iniziale di cantare al microfono, al tempo novità assoluta per le cantanti, Lady si portò a casa $35 e fu felicissima. Dopo poco fu tempo per un'altra incisione ed entrò in scena anche Teddy Wilson, un pianista che ebbe una parte molto centrale nella carriera di Billy. Diventarono grandi amici e gli anni che seguirono furono per tutti e due degli anni molto prolifici dal punto di vista artistico. Incisero 6 canzoni, tra le quali Miss Brown to You e I Cover the Waterfront, un tema da un film che più tardi fece parte del repertorio personale di Billy. La vita continuava quindi tra 9 incisioni. Tra queste c'era anche qualche canzone scritta da Billy, ma nessuno le parlò mai di diritti d'autore. Lei continuò a cantare nei clubs fino al giorno del debutto all'Apollo Theater di Harlem, sia allora che oggi il tempio indiscusso della musica nera a New York. Il pubblico di questo teatro era notoriamente duro e pretenzioso, ma accolse Billy con enorme entusiasmo, tanto che rimase lì a cantare per tutta la settimana. Billy cantava tutte le sere volando di club in club. Qualcuno la iniziava alla marijuana e qualcun altro la portava a partecipare alle jam sessions più hot del momento, dove ebbe modo di conoscere i musicisti che molto influirono sulla sua carriera. Racconta: queste jam sessions erano cose meravigliose. Tutte le mattine all'alba, quando uscivo dal lavoro, sempre ce n'era una da qualche parte. Gente come Benny Goodman e Harry James, anche loro arrivavano di corsa non appena finito di suonare nelle grosse orchestre della radio. Suonavano tutti insieme ed erano le carte migliori del mazzo. Infatti in quei giorni si potevano ascoltare in una sola serata musicisti come Louis Armstrong, Roy Eldridge, Ben Webster, Teddy Wilson e Benny Goodman. Altri ancora facevano il loro ingresso nel panorama musicale newyorkese arrivando da fuori, ma fu un musicista in particolare che prese un posto molto importante nella vita di Billie Holiday. Un ragazzo del Mississippi, timido ed introverso, arrivato in città con la band di Count Basie, destinato a diventare uno dei giganti del jazz suonando il suo sassofono tenore. Lui si chiamava Lester Young. Racconta ancora Billy: a quei tempi, se qualche cosa di importante mi doveva accadere, sempre mi accadeva in una jam session. Fu ad una di queste sedute che incontrai per la prima volta Lester Young. Dal momento Lester seppe quanto mi piaceva che si mettesse a suonare i suoi begli assoli dietro di me. Billy e Lester si adorarono a prima vista. C'era qualcosa in comune tra le loro vite e la loro musica. Erano in grande sintonia, insieme facevano vibrare le loro voci e fumavano la marijuana. Tutti credevano che avessero una storia d'amore, ma questo non successe mai. La loro amicizia durò negli anni e fu molto preziosa. La musica li metteva a loro agio. Lui ammirava il modo di cantare di Billy, lei amava il timbro soffice del suo sassofono. Lester aveva la tendenza a suonare delle lunghe linee melodiche costruite su poche note. Era un innovatore geniale. Quando suonava sembrava parlasse, tanto i suoni si avvicinavano alle parole. Fu Lester Young a ribattezzare Billy Lady Day, perché diceva il suo nome era troppo lungo. Per lei Lester era il più bravo in assoluto, quindi lo chiamò The President. Fu così che tutti presero a chiamarlo Press. Era il 1937. Press, dopo essersi imbattuto in un topo in un albergo di Harlem, chiese a Billy se poteva andare ad abitare con lei e sua madre. Nel loro appartamento c'era una stanza in più e Sadie fu contenta. Press, per rispettare la tradizione, trovò subito un nome anche per lei, duchessa. Una duchessa, un presidente e una lady. Anni più tardi, Billy disse che insieme formavano la famiglia reale di Harlem. Racconta Billy Holiday: mi innamorai, ma sul serio, per la prima volta, e allora capì che quanto era successo fino a quel momento non era stato altro che fare balocchi. Billy non rivelò mai chi fosse quest'uomo, ma disse che naturalmente era un musicista. La cosa durò poco, nonostante l'intensità iniziale, e Lady Day scoprì di avere una natura passionale ed un debole per gli uomini belli. Iniziò ad essere molto occupata con le incisioni e le jam session. Fece ancora serate all'Apollo e per qualche tempo l'attrice alla radio. Continuò a lavorare con Benny Goodman e Teddy Wilson. Erano molto amici e Billy adorava passare le notti andando da un club all'altro di Harlem, dove tutti la conoscevano. Tra le canzoni che cantava ce n'era una scritta da Lady stessa. Scrisse lei il testo su una struttura blues e la intitolò appunto Billy's Blues. Era in realtà uno dei pochi blues che cantava. Immagini da una storia d'amore disperata e senza speranza. Certe frasi del testo sono spietate. Poi si va verso un finale quasi ironico. Billy la cantava con notevole intensità e si sentiva davvero che le apparteneva. Amo il mio uomo. Mentirei se dicessi di no, ma lo lascerò. Sono bugiarda se dico di no. Sono stata la tua schiava, bello, da quando sono diventata tua, ma prima di diventare il tuo cane, ti vedrò nella tomba. Il mio uomo non mi dava la colazione, non mi dava il mio pranzo, aveva da ridire sulla mia cena, e poi mi sbatteva fuori. Ha avuto il fegato di mettere dei fiammiferi sui miei vestiti. Io non ne avevo molti, ma avevo davanti a me molta strada. Ora, io non sono molto carina, non ho i capelli ricci, ma mia madre mi ha dato un qualcosa che mi accompagnerà per il mondo. Certi tipi mi amano perché sono allegra, altri perché sono vivace, certi mi chiamano tesoro, altri credono che io abbia soldi, certo mi dicono Billy, sei nata per correre, adesso se metti tutto questo insieme, sono quella di cui un uomo in gamba ha bisogno. Il blues di Billy, Billy Holiday. Some men like me cause I'm happy. Some cause course I'm snappy. Some call me honey. Others think I've got money.